prego, prego, c'è qualcuno in ascolto? Avanti, chi è? Il Boia. Dove? Usciamo poco. Sarebbe Giuseppe. È andato là. Ma di Galuazza, sì. Ah? Bene così. Che cosa, Antone? Si è mangiato. No, dovete rifare solo... No, ho mangiato solo due uova. Due uova? Ma cos'è andato? Che cosa fa che mangiavi fagiolini o la caprese ti mangiavi? Molto meno delle uova, eh. Sì, vabbè. Ma non ho toccato altro, capito? Ho mangiato solo due uova e poi la frutta, basta. È un pezzo di anguria. Capretta, mi sono messo due tortellini, un paio di giustere e l'insalata fatta. Hai fatto bene. Giallo credo, giallo. Ma stavi lavorando, no? Sto oggi no, poi saranno, ficcata, già basta di dire che ho fatto per due mesi interi. Ah, con cosa, con Daniele? Eia. Ebbene, no, altre persone non sta cercando, no, ancora. Ma negativo, non sta cercando nessun altro. Tu facevi la mattina e sera con lui, cioè la mattina col comune, la sera con lui, capito? Adesso lunedì alle 11, quando finisco, telefono a lui, viene a prendermi e lavoro con lui. Fino alle 7, alle 8 di sera. Ah, scappa. E vabbè, l'importanza... Che ci sia il lavoro, ancora e poi per il resto, fregatene. Quello sì, c'è da poco nel patto. A me lo ti ritiri un po' di soldini, Antonio, a me no. Ce l'hai, ritiri il collo, un po' da comune e un po' da Daniele. Se ne parli di buffi. Sì, vabbè. Guardate, mica è il coso. Entro lunedì bisogna pagarlo, il limo. Ci ha pagato mamma. Ah, ci ha pagato là. Eia. Mamma l'ha pagato nonno. No, ma è mamma che c'è stata lì a casa, aveva la borsa a pagarla io. Quando me l'ha presa la pago io, Ivo. Ma e quanto ha pagato ancora? 500 ha pagato. Cazzo. Anzi, noi siamo andati bene, perché noi abbiamo pagato per la prima rata 370. Figurati. Però tu c'hai, voi ci avete quella casa in campagna, il discorso è quello. Se tu sei tornato e facevo alla... Cioè, ti stavo una cosa all'altra, però ho fatto, ma non ho ancora di meno. Antone. Eia. Chi parla così vuol dire che c'ha roba, capito? Che c'ha roba. Io me ne sono uscito 135 per questa parte, se no mi chiedere nel 270 e me ne gioco fuggito. Sì, sto facendo per quello, infatti, sto facendo Giuseppe. Giuseppe c'ha anche altre roba, capito? Quindi parla così. Se no come a casa non paghi, perché Giovanni non ha pagato niente per casa sua, perché c'ha tre figli, capito? Si lo ferma, ciao Giuseppe. Beh, Claudietta. Tutto ok, mi manca mangiato ancora. So che arrivato un gatto e si sentiva un odore di fumo in ascensore. Ho chiamato l'attore, stanno arrivando, adesso mi chiameranno per vedere che cos'è. Se no mi intanto l'ho già staccato, ma fai un cazzo. Ah, cappa. Cos'è questo può fare l'ascensore? No, c'è qualcosa che sta raschiando, Antonè, e si sente un odore acre proprio di roba di bruciato, capito? Ho fatto tutti i piani, ci danno tutto tranquillo. Allora l'ho staccato adesso, l'ho disinserito dal magneto termico giù e ho messo il coso del pulsante ascensore fermo. E ho chiamato la Come, cioè, appena arrivo la Come salgo su e apro la cabina e vediamo se c'è qualcosa di bruciato, perché non mi piace a me, capite? Come sono io qua che gli dico la barracchetta, e allora abbiamo staccato. Adesso tutti a piedi, come faceva Dio Claudio. Io cosa, siamo con le acque di fuso, perché stava schiando qualcosa e me ne ha fermato, sì, da un grido. Ho staccato la corrente ed è fermo piano terra. Adesso per arrivare al conesce loro, tanto mi devono fare il foglio dell'intervento, solo mi dicono che l'ascensore è idoneo, ma non c'è problemi, però devo dire loro, per me non è idoneo, c'è qualcosa che sta bruciando, sali scendi, c'è qualcosa che sta toccando da qualche parte, quello di gomma senz'altro. Non gioco io, direi di lì, sono esperti, allora apro la cabina e controllo, perché adesso li seguo io, perché l'altro giorno li ho mollati e avevo cambiato un sensore, adesso li seguo io, piano per piano. Cava, cava, avanti Giuseppe. Appa, l'importante è che non ci sia niente, non ci sia nessun sensore, se no rimane bloccato, tocca chiamare anche i vigili del fuoco. Portato a terra, non c'è nessuno, è a porta aperta, a terra, e nessuno deve utilizzarlo perché non c'è corrente, l'ho staccata. È portata, era quello, che non ci sia nessuno dentro l'ascensore, se no fai come una volta, certo che no, che siamo stati bloccati quasi 3 ore dentro l'ascensore. No, io l'ho portato a terra, mi sono assicurato non ci fosse nessuno, l'ho chiamato, l'ho portato a terra e l'ho staccato. Dai, datemi un attimo di bianco, ci sentiamo dopo se siete qua, ok? Va bene, vai a mangiare tranquillo, là, non ci sono problemi, già siamo qua, già è tutto acceso. Ciao, padre Rosmetro, vai Antonè. D'accordo. Io va bene. Non ci sei combinando, già stato stamattina, è uscito, sì. Io ne ho accordato, ma quella questione te l'ho chiesto, gliel'hai chiesta, no? Non mi ricordo adesso di quella faricina perché me ne sono dimenticato. Rispondo a venire la memoria. Del motorino, la mazza te ne vai. Ah, Daniele. No, me ne sono dimenticato di chiesto. Quando vai lunedì, dilli se me lo dà quel motorino, hai capito? Se me lo dà. Io non chiedo se te lo dà, adesso vuoi ti dire. Scappa. Ma per tuo fratello? No, per me, non hai capito, per me, non per mio fratello, per me. Adesso da voi, la usi più la macchina. Ah? La macchina non la usi più. No, adesso faccio il coso, ho trovato un'assicurazione che mi fa pagare poco, capito, tramite mio cognato, all'anno pago 50 euro, hai capito, per il motorino. 50 euro all'anno non può essere, 2,50 si paga per il motorino, lascia perdere, a meno che non dichiari che ce l'hai 6 mesi all'anno, allora sì. Ma il fatto che faccio la faccio inserire a lui, capito, la moto, capito? E lui parte con la prima tranche, capito? Ho capito. Ci provo, se mi dice di sì, te lo dico e non c'è problema per quello. E hai capito? A meno vengo giù, me la carico e me la porto via. E ho capito. Non si comunica la macchinetta per quella 4 volte, non la 50, direi. E Milano non mi sembra nemmeno quello che c'è a cosa. Mi ha ingrenato. Il guasto, quello scemo. Eia, quello lì, almeno se è al coperto. Cazzo, ce ne vuole 3.000 euro e poi ce ne vuole altri 2.000 per metterlo a posto. Ma se domani, ma ci sono messo su internet, se fai un giro, meglio di quella lì. nuove, sono comprato un amico mio da poco, l'ha fatta seminare nuova, la fiammante. E per il 7 milaio, cazzo, non vado e non mi prendo la nuova della Renault. E vabbè, ma 7 milaio non paghi. Come secondo te sono proprio più delle carte per invece di quelle, né? Non è la gente si compra di quelle macchine lì e muove la macchina normale. Anche se hanno fallito, non stanno più vendendo. L'hanno capita che ormai è finita di riprendere per il culo le persone, sia per la benzina sia per le macchine. Perché quella là è... quella macchina lì è elettrica, hai capito? Dunque va attaccata al corrente, hai capito, Antonio? E vabbè, ma meglio di niente, a me si è coperto per dire, anche se fa 50 a 60 cosa te ne frega, mi pare di accompagnare a lavorare. Importante è quello, hai capito, a me serve per lavorare, no, non per altra, poi quando la macchina è elettrica mi porto il cavo, la prolunga, attacco dentro dove sono e carico la batteria, hai capito, a me non sta tutto il giorno in carica. Se vuoi andare a darci la presa esterna, così ti caricano gratis. Ecco. Ti va bene. Comunque chiedi a Daniele se ce l'ha, quella moto, sembra là. Se no, vediamo un po', vediamo di chiederla a Marco Bidau, di trovarmi una moto secondo mano. A non pagare molto, ho capito. Ma se tu vai all'officina, sono fatti le tue, mi dimostro che le porta a riparare non le ritirano. Sono anche una ciappa, un bel acciappi di quelle. Io lo scuba l'avevo procurato così, capito? E l'ho usato parecchio tempo giù al centro storico, poi mi aveva dato l'avevo preso l'altra moto da Battistino, quindi lo scuba l'avevo regalato a Luca, capito? Se vai all'officina meccanica, gli hanno detto lui, fatta chiedere. Ci sono da 4 mesi che non è mai stato ritirato, che ci hanno parecchi anni buttato di lì, non fai altro, dovrei andare a prendertelo, tanto per buttarci lo dovevano pagare, quindi preferiscono regalarlo. Basta, vabbè, adesso vediamo. Adesso glielo chiedo a Marco se ne ha qualcuno, qualche scuzzerino, hai capito? 50 e dunque tutto per muovermi in città, capito, non per altro. Qualcosa puoi chiedere, però ci regalare inviato le coach, se c'è qualche cosa. A chi, a Mariani? No, Mariani c'ha molto zappe, più avanti. Dopo lo spin. Esatto, sì, perché anche a lui. A me l'aveva regalato lui, tramite l'amico. Ne aveva 5 di moto, diciamo, anche un Kawasaki. Addirittura stava buttando le due cerchie in cerca, qualcuno se ne serve. Una volta l'ho fatto in fuori, non ha più pigliato niente di nessuno. Adesso, capace qualcuno magari ha trovato qualche moto, ma l'abbiamo messo a posto e ce l'ha ributtata da una parte, da parecchi mesi. E capo adesso, quando ci passo glielo chiedo, se hanno qualche moto a cerca una mano. Io glielo pure la cosa, vai, ti posso dire, moto a cerca una mano, però non so se devo... La Conca, se via Napoli. Ah, ho capito. Per conto dell'occasione c'è qualcosa di buono. Ah, tolto. Quando fanno le cose delle giudiziarie, hai capito, Antonè? All'asta. Ho capito. Oi. Speriamo che vi faccia rinnovare il contratto, Antonè. 3 mesi è fatto, come me. Hai detto che l'ultimo mese che faccio, dopodiché il prossimo anno mi hai detto. Quindi sarà molto efficiente per il nome, eh. E vabbè, comunque la domanda la faccio lo stesso, non è che hai capito, poi sapranno loro, gente che rifiuta, invece di a quella persona che ha rifiutato, mi fanno fare, dice, ma lei se la sente? Se mi dice, se la sente, correndo pure. Ti prego, facendo, anche perché non siamo soldi in comune, hanno bloccato tutti i finanziamenti adesso, il discorso è quello. L'altro l'altra volta, quindi proprio tu ce l'hanno, non sono soldi in comune, non, in pratica la regione non ha stanziato niente, quindi sono tutti bloccati. Ah, grappa. Ma è una cosa, Tone, ma il discorso è questo. Io ho finito ieri, il mese di giugno, però i giorni che ho fatto, quelli vengono pagati o no? No, assolutamente. Gli ultimi giorni che hai fatto, non so, in pratica tu i soldi li hai tirati prima, hai capito? Se tu per dire entri il 7, il 15 li tiri più un mensile, hai capito? E cappa, No, perché io gli ho portato il fuglio degli ultimi, vabbè, di ieri, gliel'ho portato il rapportino e era già consegnato all'assistente sociale, poi vedranno loro, hai capito? Già lo so, ma tu l'hai tirato prima, se tu quando sei entrato non giravi la mensilità, se ti tocca per forza. Se invece è successo come è successo a te, anche a me, appena entro, i tiri, per dire, io entro il 7, e i tiri il 15 ho tirato la prima mensilità, quindi in pratica quando finisci per dire all'ultimo mese non ti tocca niente, gli ultimi 10-15 giorni che sono. Ah, va bene, vediamo che invece a luglio mi diano qualcosa, io ci provo, poi non lo so. Poi la cima sarà difficile comunque, fatto che hai bloccato tutto, capito, non ci sono soldi in comune, il problema è quello, se no non avevamo fatto fare qualche altro mese qui per dire 3-4 mesi. Ah? Sì, i caputi non devo farne per la mano, ho fatto la tavoletta, sono andato a fare l'antenna, oggi a riposo. Come lo c'hai? Ti tieni a Scupi? No, c'è coso. C'è Alessia, c'è Mirko qua, c'è Giovanna. Ah, e dunque Scupi è a casa di tua madre? E io. Ah, ce li avevi a pranzo? E io. Hai fatto bene. Fatto bene, sì. Quando è che avrebbe fatto ieri tua sorella? Fa 2 mesi. Ah, adesso è già in 7 mesi, è già. Yeah. C'è una bella grossa la pancia, no? C'è una bella grossa, sì. La Cuba. Vabbè, riposate a guardare tutto bene poi. Ti metti Zietto, Antonello. Allora, un'altra volta, Zietto. Vabbè, almeno quando nasce il bambino al battesimo, fai click e drop. Clicco con clicco. Io. Certo, fate lo passi tu. Non lo so qua, perché sono a corto di cash. Se per caso è scuro, mi basta mettere lo squillo, al limite per l'altra ci vediamo di lì. Ci vediamo una cosa e poi me la salgo su qua. Sono passato ieri sera. Sì, vabbè, ci vediamo, non so sicuro. Perché domani devo andare presto a Corso, giù a Fertilia. Allora posso, mi arriva mia nipote, devo andare a prenderla, capito? Capito. Va bene. Aspetta un attimo, vado a rifrescarmi la bocca, vado a bere fuori acqua, sa? Sì, vabbè, dai, già rimango qua in ascolto, dai. Sono in quelli. D'accordo. Già. Bellongo. Ciao, Tellongo, ero piatto, ci sentiamo dopo. Sono in quelli che c'è anch'io, là. Hai trattato bene? Non molto, no, ci avevo una vita. gli autodilettanti che mi stavano entrando nel culo mi stavano dando fastidio. Manca poco, Clark, manca poco, almeno felice di venire di prima. Ma c'è già... ho portato a Domos. Ciliegias. Ah, le ciliegie. Eia, eia. Buone, buone veramente. Buone, buone, buone. E ora ti... medici? Eia, cappa. Ah, e quanto te ne avete? A volta? Poco, poco, poco. 2 euro? Ehi, qualcosa in più. 2,50 euro, dai. Cappa. E poi vado a me, però... no, già, già ci pensavo la mia madre, già, no, già proprio anche l'Anguria, diciamo quasi fuori l'Anguria, poi ce la fanno fuori il Perone, e dunque quello stasera a merenda sono con il coso, è cresciuto crudo. Ma di rosmetto, eh? Ehi, stavo andando a Nicco, quindi. Allora torna anche a me. Dai, ci sentiamo dopo, Giorgio, che seguo questa cosa dell'ascensore che mi interessa un po' di più, perché questo odore che c'è non mi piace per niente. Ci sentiamo dopo, ciao anche Antonio, vai. A dopo, dai, ciao ciao. Girare, perché devi girare dove c'era all'ingresso quando sali su, no? arrivi contro le trattate, c'è una chiesetta che fa ad angolo, c'è una stradina piccolina sulla sinistra, ma se non ci sei mai andato è un casino già, ha spiegatelo così anche violente male a me ricordarmelo. Oh Gianni! Già ho capito con il tuo cugino Antonio Giuseppe, ma non me lo ricordo dove, vai, e l'abbiamo fatto di notte, quindi. Guarda, visto la chiesa di Santa Bartolomeo, quando c'è la prima chiesa che trovi nel paese. Hai capito la chiesa? Allora tu fai la salita, dove c'è quella persona là, ti ricordi la fretta? E di fronte ai giardini. Dove sono i giardini? Dove c'è la ciuba tra i vedi? Hai posto, perché poi è attaccata all'iPhone, la discoteca. Gappa. Vabbè, troverò. Se in caso andiamo, mi fai il gruppo di telefono, poi al limite te lo aggiungo io, ha capito? Vengo io a prenderti. Va bene. Facciamo così allora, Giuseppe. Tutto dipende che se vogliono andare loro, se vuole andare Claudio oppure, non lo so, adesso vediamo cosa dice Claudio stasera. Vediamo un po', dai. Ascolta, io telefono a te, se in caso ce la faccio, ti vengo a prendere, se non sono saliti loro andiamo lui, non c'è problema. Perché io ci tengo ad andare a vedere a Luca. Vabbè, tu in caso, capito, in caso... fai quello che devi fare, poi non ci sono problemi, cioè, ce la fai a liberarti e mi trovi a casa, mi fai un colpo di telefonico, mi dici Giuseppe è pronto, sì, allora questo poi venendo a prenderti, e scendo. Mi ha dato sul battesimo, ma non sarà verso le 6, che ti liberai le 8 per mezza, va benissimo, anche le 9, io. Allora, Gianluca, tanto lì la gente, prima di... delle 11 a mezzanotte e mezza, non esce, hai capito? Perché intanto io faccio ormai io oggi la conosco con le mie tasche, sono di casa, dunque conosco già quando io stavo lì a Ussi, un paio di mesi sono stato a Ussi, dunque lì la gente comincia a uscire dalle 11 a mezza, va al bar, lì al bar centrale, lì in piazza, si fermano fuori, vanno tutti quanti, non so se poi la discoteca l'Atrium, ma l'Atrium, il Brustale è aperto, non so. No, non penso che il mercato sia aperto, anzi, dovrebbe passare in una discoteca. Adesso vanno le palle a ribalare, che fanno quei bar della spiaggia, con musica alla discoteca, andare a ballare, sai quelle cose caraibiche, che c'è anche per vero, sì. Ma di batti burlisi ha giocato, non c'è dopo le rifame, lo fanno lì alla... prima della camera termalica, adesso è un locale che non mi ricordo come si chiama, ci sono i camping, non si chiama negli studenti di Bisentini, c'hanno dentro la piletta, ci sono anche i ci sono le posti quelle così, il ristorante, la città all'aperto per me. E dopo dall'altra parte c'è un chioschi per andare, no? Che fanno anche lì al mare. Ho capito. Allora, per dire, vai, con la zona di dopo lo sparare marino. Ho capito, come quelle così lì. Mi sento che di luce, tanto che il romanzo non è una bella creta. La da amici come voi, uno si siede lì, una bambina, che rilassa. Poi prendere, cioè la buona, poi è capito, anche lì, quella è una risposta. tanto. Diciamo di, che, no, diciamo che non stavo uscendo. Stiamo già sta uscendo, no? Ecco, vabbè dai. Al limite ci sentiamo stanotte su da mio cugino, dai. Ci vediamo stanotte. Rimane con la schiuma gialla e degli scura scura. Beh, tu lo so. E a quella che la conosco, quella, la rossa. Buona, buonasera. Ah, se mi lasciate parlare, sono continuate. Ciao Antonio. Ciao Gianlu, bene, scusciados. Ero ascoltato da Sassante, avanti Alessio, avanti da Antonio. Ciao Antonio, bacioni. Ah, e tu si chiami Carmenevo. Ah, il caro, caro. Vuoi che il sindaco di provare? Bacioni. A te, lui Gianlu, vai da intesa, mi Gianlu. Stavo raccontando l'avventura, piacevole tra l'altro, perché dopo era un po' che anche non uscivo, perché con i turni, con le cose, ma mi senti la mattina quando rientro, che stiamo su prima volta, allora, tutto il tempo, dai, tanto ci sono più libera, che devo andare a fare questa cosa, ho detto, basta, devi esagerare, senza esagerare, allora lui è per entrato, stavano, senza esagerare, ecco qua. E lui Alessio stavo bevendo quella birra scura. Ah, non ti gonfia, come tu stai bevendo fai risucco di frutta, nel senso che non, cioè ti rendi conto che stai bevendo, però che non è birra, perché non sembra birra, ma da voi uia. Posso dare tutto tranquillo, lei fa fare i dati, non ero volevo dire si basere a voi, no perché dopo lì siamo usciti, siamo andati giù, abbiamo fatto un paio di tappe in altre buste, dopo che abbiamo separato con altra gente, dopo una bellissima serata, c'era quel freschetto giusto di fronte al porto, non poteva andare più per bene, cioè per dire, ma vendi in paura, non ti rendi conto, hai che fatto che avrebbe dovuto, per esempio l'anno che mi chiuse, ti avrebbe fatto lo stomaco da paura. Sì, già lo so, ma quella bella è buona, la verità, la bella scura, e c'è anche meno gas. Buona, se ne bevi 5 o 6 sei morta però. Allora, mi ha giunto pure di giù come dare, in chiesi. Avanti, perfetto. Io lascio la stessa nuova campanella, e le prendo dopo. Ah, ok. Avanti, Luigi. Antoni, c'è che c'è iniziata a mezzogiorno e mezza, la festa della birra lì di fronte al Gris. Anticipata? Sì, ma c'è una birra di quella senz'altro a 33, capito? Non conviene, no? Se ne fate quei bottini normali, come c'è quello che c'è tuo fratello, ho tutto bene. No, alla spina, c'è lui, le cose ha messo le... tipo il carrozzone a fuori lì al piccolo bar, mi hai capito, al piccolo bar, e ha messo questa specie di tenda e c'è il banco e il con la spina, hai capito, poi c'era anche la pecora. Allora stasera ci vado sino a stanotte, capito, sino a stanotte, fino all'una, alle due, dipende, da mezzogiorno fino alle due di notte. Quindi va bene, è buona allora. Già vi faccio un giro stasera, tanto non sto facendo niente. Stasera esco, ci faccio una bella passeggiata. Alla cacciatora con olive, già un po', fammi occupare il becco. e il lavoro non ce ne danno, hai capito? Solo ai ragazzini lo danno, solo a chi ha 22 anni, 23 anni e riescono a trovare qualcosa. Ma noi avevamo una certa età, travaglio, ha detto che non venne per noi. Preoccupare, caro. Ringrazio il quello che abbiamo, Giuseppe. Sono 300 euro al mese, cosa vuoi di più? Lavori 3 ore per 3 volte a settimana. Solo che fa la voce nera, non c'è mai fatto a pagare le bollette. Giusto. Quello il discorso. Tu ritiri 300, io ne ritiro 250. Ecco, è una cosa strana, ma molto strana. Ma allora questo braccio lo avevo fatto mai, facendo il cavallerista. No, passa in cavalleria, sta tranquillo, te l'ho sempre promesso le cose, te le ho temperate, glielo sai, già mi conosci. Tranquillo, non ho mai sbagliato con nessuno, grazie a Dio. Allora questo posso vantare. L'impianto quando c'è un metodo di tempo adesso, io che sto facendo questo lavoro del comune, poi sto anche dando la mano a un altro, quindi sto cercando di incattare qualcosa già fa, capito? Adesso finisco il 30 di giugno e poi metto a calcolare. Tranquillo, se c'è la nostra carrozzata si può spostare dove vuoi. Io sono appiedato. Qua addirittura per fare la lavorare sul tram, non è che sono notte, non c'è neanche scooter, figurati. Adesso quando sarà il momento che incasso qualcosa in più, prendo uno scooter, mi faccio l'assicurazione e allora mi vanno in giro come una volta. Capito? E quindi sono più tranquillo, adesso sono ancora così. Quindi, ogni mattina vado a lavorare e piglio il tram, non è che. Non vado manco per dire a fare dove sono le feste nei paesi, non ci vado a fare, no? Senza soldi come fai? Fate per brutta figura e basta. Per fare brutta figura non ci vado e basta. Ne rimango a casa, devo rimanere a fare il casalingo. Se non prima ti ricordi quando ero in Gerizzo, grazie a Dio, stavo bene, uscivo in motorino, pagavo l'assicurazione, mettevo la benzina, ero sempre in giro e la mattina alla sera. Grazie. non ho a fare lì, non è male che dopo invece abbiamo, se sono riusciti in speranza a arrangiarti diversamente, questa miseria. Adesso mi sono accorto che se uscivo di basso allora è tutto normale. Sì, sono 2 volte e mezzo che sto cercando di tarare questo cazzo di 1231 watt di rompono la come, mi ha rompito io le palle. Ma che cosa stai facendo? Scusami se ti domando, l'ingresso lo stai controllando? E allora, mi fa saltare il transistor di accoppiamento. C'è qualche corto, cazzo, non riesco a capire da dove, perché non la tensione aerodica è buona, ma fa saltare il transistor di accoppiamento. Mi scatta di lì, mi sgancia di lì. Ma sapere cosa potrebbe essere, se non intendo sinceramente. Io sono andata, non so, potrebbe andare dura, la blu, non so cosa posso. Qualche resistenza, qualche cosa magari, qualche componente magari mangia di dura, che non si fa funzionare tutto questo schema? Non lo so Gianlu, adesso sto provando le tensioni, ecco sono tutti a posto, sulla 220 a posto, 12, tutto ok, sono giuste. Adesso riprovo, perché a volte lo fa, a volte non lo fa, gancia sgancia, e non lo deve fare. Ora, o è relè che è andato in gomma di vostra mano, oppure c'è qualche altra cosa. A voi da Rosignari? Sì, Gianlu. Sono venuti e li ho seguiti un attimino, ma niente di particolare. o un magneto termico che stava scaldando l'hanno sostituito. Non so Gianlu, non so. Perché guarda, questa è la bassa potenza e questa è l'alta potenza. Vedi? Che non cambia assolutamente niente. Lo stavo per dire. Non cambia assolutamente niente, se non che poi robustisce la modulazione nel passaggio di alta potenza, quello che ho fatto. Non è detto da saturazione, perché se la regge bene la modulazione del microfono, però sente proprio la spinta, quella da dietro, no? Questa carica, la sente da dietro, capito? Ti porti dietro nella modulazione. Però come segnale appunto non... Allora io qui sono rimasto da 9-10. Positivo, adesso dovrebbe essere a posto, è regolare la modulazione, Gianlu? Sì, tantissimo, adesso c'è il segnale stabile, tranquillo, modulazione chiara, e perché poi sta a posto, non c'è stato questo segnale. Normale. Un numero driver. Oh boy, un driver. vediamo se è tutto ok. C'è qualche problema sul driver, dai. Adesso me lo controllo, Giallo. Così lo metto a posto. Ci sentiamo dopo, ok? Ah, non c'è problema, sono salvo. Allora, mi lancio per un momento, se la faccio io, se invece mi controllo... No, non è capito. Però, vedere, sono sempre salvo, per dare la posizione, e passa. Ok, questa è la posizione giusta. Anzi, forse anche con il cappelletto, mai non si sarebbe così. Si chiarisce la modulazione, vero? Aspetta che ho sganciato, già mi sentirò stesso. Sì, c'è qualche... c'è appena di saturazione, ma abbastanza comprensibile, Giallo. L'ho abbassato comunque, allora l'ho abbassato un po' più effettivo, se lo sento ancora un po' saturo. Ecco qua, adesso l'ho abbassato un altro paletto. E ti ricordo che l'avevamo imparato a 9, però sicuramente abbiamo fatto il lavoro a freddo qua, così che dopo di te non possiamo, non si può più aumentare il dato tensiometro. Purtroppo quando aumento, adesso meno della metà, con la leva che è 31, e meno della metà e la lancetta dello smitter mi rimane a portante muta bianca un pochettino più sotto del 5, leggermente più sotto del 5 e lo sale a 7 a fischio, a picco di fischio. No, beh, oh, via, 9-10 sì, quasi qua. Via. Però adesso questo qui ce l'ho libero, ce l'ho diretto in antenna, c'è diretta l'antenna e non c'è il coso per vedere quanto stavo scendo di base, ecco tutto lì. Questo c'è il diritto. Mi vedi, mi sta anche un po' fischiando perché mi fa la cuffia senza rientro. Adesso attacco l'altro, faccio andare un pochettino anche l'altro, perché giustamente non oggi butto il cavo, l'altro se mi si accende. Prova a vedere. Sono l'altro, lo sai come te. Rendo suo metallino, Ghiscio. Questo qua è lo stesso portante bianca. Ce l'ho a 7. Ok. E arriva a 9.20. Hola. Sono 60 all'incirca. 60? All'incirca, se sta segnando giusto qua, quello. Ma fagli stare il burro 50. Lascia qua, non so come comportarmi. Più o meno ci siamo, là. Cazzo, sono... 10, sono 40 mA di assorbimento di valvola, 40 mA so, dovrebbe essere giusta, cazzo. Ah, il segnale con quello lì, con questa quella che sto ascoltando è uguale a quello lì, quindi sta andando bene, stabile, il segnale è stabile, con questo qua lo stesso c'è lo stesso segnale, leggermente un po' in meno, ma è perché dipende dalla varizia di questa radio qua, che anche questa qua vorrebbe, a fatta smitter, vorrebbe leggermente regolato per portarlo un pochettino più in su, un peletto più in su. L'altro se 9.10 e con questo qua se 9.5, 9.7 modulato, capito? Ma siamo lì. Quello mi sembra, quello del K mi sembra più preciso, mi sembra, come smitter. No, beh, è sicuramente molto più preciso, Giallo. Anche a me mi capita con i baracchini e quindi lo do orientativo, dai. Vabbè, lasciamolo così, dai, lasciamolo così. Adesso lo chiudo e vediamo un po' dove si comporta. Ho cambiato anche il condensatore elettrolitico che c'era. Era mezzo andato, un transistorino, una valvola casa nuova. Sembra che stia andando, eh? Che va bene. Allora, già sta andando, adesso già sta agganciando. Magari quando scalda non te l'ho fatto, lo fa magari quando è appena freddo. Io, poi l'assicuro Michele, non lo so, io non lo lascio molto acceso. Quando accendo il baracchino, che voglio farmi due chiacchiere col baracchino, praticamente provo, però vedo sempre qualcosa che non va. Dunque, se 40 mA di assorbimento sulla valva, non sono poche, sono tante. Ho capito. Va bene, invece comunque il mio segnale con questo qua è sempre normale, di là nei tuoi confronti, sempre tranquillo? Sì, sì, 9 più 10, giallo, 9 più 10, radio 5. Però questa qua, sinceramente, questa è più chiara, vero? Questa è più bella la radio dell'altra, eh? No, no, questa è a posto. Questa è tutto ok, tutto a posto. 9 più 10, radio super 5. A posto, capito? Dai, lo chiudo Gianluca, ci sentiamo dopo. Ehi, ok, dai, sono qua. Confronto ancora due cose qui al PC, stavo controllando due basi musicali, se c'era qualche aggiornamento, e così che dai, vi mando un quel rig, sì, avanti, dai, fai, fai. Dai, ci sentiamo dopo, ciao ciao. Okay, ciao ciao.